la strada dormivano il sole, un sole che anticipava la primavera, baciava la fronte ai vecchi e baciava Vera, che dalla fontana lavava e cantava così. La la la la la la la la la. E come ogni giorno tornavano a casa i bambini, in mezzo ai bambini vivevo la mia poesia, miliardi di storie in mezzo alla storia mia, due soldi di cacio ai calzini, due buchi così, quando vidi volare in cielo quel fiore strano, e sfiorando quella farfalla con la mia mano, mi sentivo diverso e la bella mi sorrideva, ma inseguì per vent'anni più perché mi piaceva. Quando vidi volare in cielo quel fiore rosso, fatti prendere mica dissi, ma lei non posso, e ne andavo lontano e la bella mi sorrideva, la inseguì per vent'anni e più perché mi piaceva. Sono morti di noia, le donne sposate deluse non hanno più voglia, i vecchi puntuali si cambiano, non ci piove, le mele testose reinventano storie nuove, e come ogni giorno finisce che c'era luna, domani mi basta solo un po' di fortuna, e quando il mattino mi sveglia dalle persiane, lascio i sogni sul letto e prendo quel che rimane, ma se vedo volare in cielo quel fiore strano, e sfiorando quella farfalla con la mia mano, mi sentissi diverso, allora non è finita, io continuo a inseguirla tutta la vita, ma se vedo volare in cielo quel fiore rosso, fatti prendere mica ancora lei, no, non posso, e ne vado lontano e allora non è finita, io continuo a inseguirla tutta la vita. I figli della strada dormivano al sole, un sole che anticipava la primavera, baciava la fronte ai vecchi e baciava Vera, che dalla fontana lavava e cantava così, la la la la la.